Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ogni volta, ormai da 3 anni, il primo giorno di ferie natalizie, cado scientificamente vittima di un qualche genere di malanno corporale. Ne devo prendere atto. Al mio corpo il Natale non piace proprio. Ciao, sono Ginevra, vivo a Milano, insegno italiano agli stranieri e mi sento sempre un po' straniera. La puntata di oggi è una sorta di benvenuto nelle vacanze natalizie. Non so se oggi, lunedì 23 di dicembre, voi le avete già cominciate le vacanze. Beh, in teoria sì, in teoria il 23 di solito è l'ultimo giorno prima della vigilia, però, insomma, essendo un lunedì, forse qualcuno è partito già venerdì scorso, forse qualcuno è dal 20 di dicembre che è già via. Se invece siete ancora al lavoro, buona chiusura prima delle ferie. Se invece cominciate oggi, beh, oggi diciamo è una puntata un po' di buon auspicio, nel senso che noi facciamo così, partiamo subito con delle sfighe infinite, in modo che uno possa esorcizzarle tutte e poi andare direttamente verso il Natale. 349-238-6666 è il numero per mandare ovviamente gli sms sempre, anche durante le feste, altrimenti ci sono i profili Facebook o Twitter che sono Voi Siete Qui Radio 24, Voi Siete Qui R24, mentre il mio è semplicemente Twitter, Matteo Caccia. Paolo scrive, a proposito di partenze che in qualche modo hanno avuto i bastoni tra le ruote, come sono le storie di Ginevra. Tra l'altro Ginevra fa una sorta di eccezione a quello che chiediamo di solito, no? Perché noi chiediamo un episodio della vostra vita, qui invece Ginevra va dritta e ne racconta tre, però li abbiamo scelti comunque perché hanno a che fare con questa giornata qua, con l'inizio delle vacanze. Paolo invece dice: l'ultima partenza ho collezionato una serie di sfighe che però non mi hanno impedito di partire. In serie, scippo la fidanzata la sera prima, antibiotici per cane introvabili da lasciare alla mia madre, forato gomma verso l'aeroporto e bagaglio smarrito. Buone vacanze. 349-238-6666. Vi ricordo che questo è un periodo particolare dell'anno in cui avete di solito un pochettino più tempo a disposizione. Vabbè, adesso no, perché oggi avrete le robe da fare, se siete in ritardo. Io mi immagino il delirio in questo momento sulle altre stazioni radiofoniche, tipo: allora, avete i pacchetti in mano, dove state andando? Sono le 4 del pomeriggio, cosa avete comprato? Avete trovato il regalo per la mamma? Il regalo per la fidanzata? Sempre all'ultimo giorno. No, ti dirò di più, qualcuno lo troverà addirittura domani il tempo per andare a comprare il regalo. Prima per il culo gli altri, per pigliare per il culo anche noi, in realtà, perché siamo qui a raccontare storie anche oggi che è il 23 di dicembre. Quello che dicevo però è: avrete un po' più di tempo libero in questi giorni a disposizione, no? Dal 26, facciamo dal 27, toh. Ecco, allora mettetevi lì, trovate il tempo per raccontare un pezzo di voi, una storia, qualcosa che vi è accaduto tempo fa e che avete voglia di raccontare, qualcosa che in qualche modo vi riguardi. E poi la spedite a Voi Siete Qui, @radio24.it. Noi tutti i giorni scegliamo un pezzo di vita di una persona e di fatto facciamo un piccolo film della sua vita, dalle 16 alle 16.30 in diretta su Radio 24. Voi Siete Qui, @radio24.it. Salvatore, aereo per New York. Arrivo al gate e mi dicono che manca la marca da bollo sul passaporto, però faccio scalo a Parigi, quindi non serve. Certo, perché la marca da bollo è una roba, mi pare, europea o italiana forse, quindi tu puoi fare scalo a Parigi con la carta d'identità e poi invece usare il tuo passaporto normalmente. Forse sono italiana, allora. Faccio scalo a Parigi, quindi non serve, uso carta d'identità. Arrivo al controllo passaporti, mi dicono che manca il passaporto elettronico. Ho dovuto fare il visto e prendere il volo il giorno dopo. Vacanza un po' costosa. Emilia, mi viene sempre il ciclo prima di ogni viaggio e in aereo, treno o nave che sia, soffro le pene dell'inferno. Se avete avuto qualcosa che si è infilata tra le ruote delle vostre vacanze, 349-238-6666. Adesso, qualsiasi cosa stiate facendo, dedicate un po' di tempo a Ginevra, perché lei è la cintura nera di bastoni tra le ruote delle vacanze. Ogni volta, ormai da 3 anni, il primo giorno di ferie natalizie, cado scientificamente vittima di un qualche genere di malanno corporale. Mi scoccia parecchio farlo, ma ne devo prendere atto. Al mio corpo il Natale non piace proprio e mette in atto un ammutinamento sistematico al mio spirito natalizio. Artatamente le mie difese immunitarie, sempre dotate di una formidabile attitudine stacanovista, all'avvicinarsi del Natale si alleano tra loro e mettono in atto il più perfetto ed organizzato sciopero sindacale. 2009, Dopo mesi di pressing psicologico, avevo convinto il mio fidanzato di allora, Daniele, ma da me soprannominato Trotti o Sgrunch, a seconda dei di lui sbalzi umorali e quindi più spesso Sgrunch che Trotti, insomma, l'avevo convinto ad un fly and drive da Los Angeles a San Francisco, attraversando i parchi naturali, per portarlo a vedere le aquile calve del Grand Canyon, il coyote della Death Valley e le foche al Pier 39 di San Francisco. Daniele, infatti, aveva sviluppato negli anni un'umanità sconfinata per il genere animale e un'animalità incontenibile per il genere umano, e su questo, negli anni, ci avrei fatto più volte i conti. Trotti, perché quando eravamo andati a fare una vacanza in Francia, lui è un appassionato di fumetti e aveva visto un comic la cui copertina era questo personaggio che si chiamava Trotti e si era perdutamente innamorato di quel fumetto, lo voleva acquistare a tutti i costi, peccato che costasse tipo 120 euro perché era un pezzo raro. Volo di andata prenotato per il 25 di dicembre, ore 9:20 della mattina da Malpensa, con tanto di fuga premeditata dal pranzo con i genitori che, pur avendomi da sempre ed ogni anno ribadito il concetto che il Natale è un giorno come un altro, non si capisce tutta questa gente che si agita e corre e si dimena per pranzi, regali e parenti. Ecco, dopo aver appreso che io, loro unica erede, quel giorno come un altro, se ne sarebbe partita per gli Stati Uniti con quel personaggio strano, il fidanzato con il quale si vedeva, in realtà conviveva, da più di un anno, insomma, non si sa bene il come e il perché, non mi parlarono per un'intera settimana, dopo avermi colpevolizzata, dicendomi che cosa abbiamo fatto di male per meritarci di essere lasciati soli proprio il giorno di Natale. Ma torniamo indietro, 19 dicembre, ultimo giorno di scuola e inizio delle meritate ferie. La serata avrebbe dato il via ai festeggiamenti per la libertà provvisoria, due settimane senza i 78 mostri, insegnare italiano ai, citando il fidanzato, figli dei ricchi che ovviamente sono tutti biondi con gli occhi azzurri e le guance paffute. Era davvero impegnativo e non sempre, citando il fidanzato ancora, passi la giornata a taglia di qui, incolla di là, colora di qua. Comunque, prima tappa della Run for Free, concerto degli After Hour al Palavobis. Era dicembre e va bene, era Milano, va bene, era sera, va bene, ero sono freddolosa, va bene, ma alla quinta canzone non mi era ancora tolta uno dei miei canonici quattro strati. Risultato, la mattina dopo, 40 di febbre. Dal 20 al 24 di dicembre, 5 giorni di clausura forzata, per me e forzosa invece per Trotti o Sgrunch. Nutrita solo di antibiotici, tachipirine e mandarini, riuscii a ripigliarmi appena in tempo, mantenendo sempre alto il livello di serotonina dell'appartamento, quotidianamente minato da Daniele, che vedeva già arenato per sempre il suo incontro ravvicinato con la flora americana. 25 dicembre, ore 6 del mattino, in auto verso Malpensa con il fedele amico Vito, che, come premio a sbattimento, aveva ricevuto un Babbo Natale di cioccolato. Pensai di avere una nuova e definitiva ricaduta quando, alla, per chiunque, ma non per Daniele, retorica domanda di Vito: raga, patenti ovviamente valide, vero? Lui aprì il portafoglio e dopo averne estratto la sua, scoppiò in un ghigno isterico, dal quale io riuscii a captare solo poche parole. Scaduta da un anno. ...2010... Dopo settimane di coliche lancinanti e dietre strazianti a base di cereali e verdure bollite tassativamente scondite, mi ero decisa al ricovero per colecistectomia. La mia colecisti aveva una produzione di calcoli pari a quella che i miei avevano di incomprensioni e conseguenti litigate. In 32 anni ne avevo prodotti a tal punto che mi ero riempita al 98%. 17 dicembre. Dopo centinaia di chiamate, finalmente il ricovero al policlinico per estrarre con quattro buchini e in meno di un'ora il corpo del reato. Dopo gli esami di routine pre-intervento si scoprì che tutti, ma proprio tutti, i valori del pancreas erano sballatissimi. Sospetta pancreatite e quindi operazione rimandata. 18-22 dicembre, giornate di esami, flebo, digiuno e conseguenti stati isterico-deliranti, in attesa che le mie amilasi e lipasi rinsavissero e si ridessero un contegno tale per cui la mia colecisti potesse essere estratta. Miss Alipasi e Milasi, come ero stata soprannominata dal mio vicino di stanza, Mr. Tango 71, tassista milanese dentro per duplice frattura ad ulna e radio, polso destro e sinistro, era diventata il cinema del reparto, a causa delle mie quotidiane sfuriate con il medico di turno. Insomma, ero l'unica ricoverata che non vedeva l'ora di entrare in sala operatoria. 23 dicembre, ore 7, valori abbastanza rientrati da poter tentare l'intervento. L'infermiera arriva con camice e goccine calmanti pre-operazione, ma ormai avevo raggiunto uno stato zen tale per cui in sala operatoria mi ci sarei teletrasportata intonando l'Om Shanti Shanti Om. 24 dicembre, Mr. Tango 71 viene dimesso con due belle braccia ingessate modello vigile urbano e al suo posto arriva Valchiria, trasferita da un altro reparto. Donnina di 1,40 m, capelli rosa a spazzola, carattere tenace, ex ballerina di liscio. Sun Chi minga perché ha avuto tanta setan, ma perché questi maledetti diverticoli. Tenendo conto che tutto il personale infermieristico era composto da ragazzi sui 20 anni, arrivati da Napoli e Battipaglia, e che Valchiria parlava esclusivamente in milanese strettissimo, la comunicazione tra di loro mi ricordava quella che avevo sentito anni prima tra mia nonna Anna e Hitoshi, il mio fidanzato giapponese. Ogni giorno rischiavo mi saltassero tutti i punti a causa delle risate convulse procurate dai dialoghi surreali tra la Valchiria punk e i giovani disorientati infermieri. 25-28 dicembre. Quei giorni con Valchiria furono come essere stata catapultata in un'opera di Beckett recitata in milanese. Tornai a casa con un bagaglio di detti lombardi che mi avrebbero fatta entrare come niente nel cabaret di Nanni Svampa e con una grande varietà valchiriana nel cuore, soprattutto e tutto il detto «Su camelun la sosta giun», parafrasando «Ogni cosa a suo tempo». Io e Valchiria ci siamo sentite per un primo periodo dopo che ci hanno dimesso dall'ospedale e poi ho perso le sue tracce, ma me la immagino ancora danzante in qualche balera brianzola. 2011. Dopo anni ad averla desiderata, immaginata, letta e studiata, quell'isola lontana finalmente sarebbe stata anche guardata, assaporata, attraversata e calpestata. Zaino in spalla, Birkenstock rosa ai piedi, Daniele Silvestri in testa ed Hemingway tra le mani. 17 dicembre, partenza per L'Avana. Solo quel pomeriggio in macchina con l'amico Dario iniziai a sentire crescere dentro di me il senso della storia che si compie. Mi sentivo parte di una trama di fatti e personaggi che fino ad allora avevo solo sostenuto da qui, da lontano, partecipando a incontri, cineforum, manifestazioni. E poi c'era lui, il comandante, il suo, peraltro originalissimo, sogno adolescenziale proibito. La visita a Santa Clara, con laico pellegrinaggio al suo mausoleo per piangerlo ancora, onorarlo sempre, amarlo nuovamente, era stata l'unica programmata prepartenza. Il resto sarebbe stato un dignitoso contorno. 18-22 dicembre, su e giù per la Isla Grande con le autolinee Via Sul, dotate di puntualissimi e modernissimi pullman cinesi. Certamente non sarebbero potuti essere americani, ma vedere queste enormi corriere ricoperte di ideogrammi che si muovevano tra le palme, canne da zucchero, cavalli ed edifici barocchi era alquanto surreale. E il tutto accadeva senza l'uso di alcuna droga. Avevo un paio di amici che avrebbero davvero apprezzato un safe trip di questo genere. Havana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara, Coco Taxi, bici, taxi, cavalle, gambe, pescado, manioca, fagiolada, rum, cases particulares, paladares, vededo, revolution. Ero in un perenne stato di stornimento alcolico intellettuale emozionale. 23-24 dicembre. Dario e la sua accademica passione per i parchi naturali e la stima per l'UNESCO, che aveva riconosciuto la meno luogo come patrimonio nazionale, mi convinsero ad un'ultima tappa alla Valle di Vinales. Una perfetta favola bucolica. Se non fosse stato altro che l'unico mezzo per poterla vedere nelle sue beltade era costituito da vecchi, zoppi e pulciosi cavalli e che il giro completo aveva la durata di 6 ore. Inclusa ovviamente l'ora in cui il sole è allo zenith, che a Cuba, in una valle aperta, ricoperta di piantagioni di tabacco, non è propriamente il posto migliore dove trovarsi. Sulla sella di quello sventurato ronzino rischiai di cadere talmente tante volte che i miei muscoli erano più tesi e contratti di quanto non fossero mai stati. Anche dopo quelle odiose campestre liceali, organizzate ovviamente in pieno dicembre, 25 dicembre, ore 16:25, arriviamo a Malpensa. Tosse canina, sciatica urlante, nausea disumana e incazzatura profonda. Dopo un necessario passaggio in guardia medica, la tappa a seguire fu il letto nella casa paterna, dove i miei mi assistettero con amore genitoriale e umana disapprovazione. My friend, she wants to be a suicide girl. I'll take her picture for the whole wide world. I've known her for a long time. You can say that I'm a fan. But I always thought that I would be her man. All'aria di una che fa colazione, Ginevra, nella foto che ci ha mandato, che anche oggi potete trovare sul nostro sito, la pagina di Voi Siete Qui. Più che altro, più che avere l'aria di una che fa colazione, c'ha delle tazze grosse così, e quindi mi immagino che sia colazione, una colazione di metà mattina. È in un luogo all'aperto, ha la guancia appoggiata a una mano, un po' svogliata, sa che le stanno facendo la fotografia e fa finta di non saperlo. E sulle tazze c'è scritto qualcosa che o è in spagnolo o è un dialetto delle valli. Val de Ra qualcosa. Pronto, Ginevra? Sì, ciao Matteo. Come stai? Bene, grazie. Cosa c'è scritto su quelle tazze? Ma guarda, ho provato a ricostruire anch'io, però ti posso dire che ero in Alta Normandia e non stavo facendo colazione, bensì mi stavo degustando del buonissimo sidro. Nelle tazze? Nelle tazze, perché li usa così. Senti, io te lo devo dire, Ginevra, che credo di aver avuto pochi racconti difficili da leggere, da raccontare come il tuo, pieno di nomi. Guarda, la colice. Aspetta che la riprendo. Colicectomia. Sì, Tiziano mi ha detto, se riesci a pronunciare la giusta ti pago la cena. Colicectomia. E poi questi nomi spagnoli che ho chiaramente improvvisato sbagliando tutto quando eravate a Cuba. Andiamo per passi, perché tu di fatto in questo racconto ci racconti tre Natali diversi, cioè tre, esatto, che sono il 2009, 2010 e 2011, giusto? Sì. Io vorrei partire dal 2009 perché mi sono terribilmente affezionato al tuo fidanzato dell'epoca. Ah, ne sarà felice. Che fine ha fatto lui? Abbiamo tracce? Abbiamo tracce. Sì, siamo ancora in buoni rapporti. Ah, ok, nonostante tutto. Da quanto vi siete lasciati? Da quanto vi siete lasciati, Ginevra? Oramai sono passati più di 3 anni. Scusami, tu ci hai spiegato perché trotti, no? Sì. Ma non perché sgrunch. Grunge, beh, allora, perché un po' aveva quest'aria del Natale passato, che era perennemente imbronciato, un po' così triste, sempre arrabbiato. Sarà felicissimo di sentirselo dire, Daniele. Sì, guarda, ma lo sa. Che cosa fa nella vita, Daniele? Scusami, è che proprio è uno di quei personaggi, è presente come nei film o nei romanzi, no? Personaggi che entrano nella storia, non sono i protagonisti, però in qualche modo vuoi saperne di più. Cosa fa nella vita? È un personaggio anche nella vita, in realtà, nel senso che è una delle poche persone che ha fatto della sua passione il suo lavoro. Cioè? E lui ha un'attività a Milano di B-movies e tutti quel genere lì. B-movies, cioè dei film? Di serie B. Ma cosa ci fa con quei film? Cioè li gira? O? È un negozio, quindi ha una serie di accoliti che tutti i giorni vanno a comprare. Ah, ok, conosco il genere. Conosco il genere, sì, un pochettino sì. E invece vorremmo sapere di più anche della Valchiria, ovviamente, però come ci dicevi, giustamente. Chissà che... Valchiria l'ho sentita tipo per le prime 2 settimane dopo che siamo uscite dall'ospedale, perché aveva un figlio medico, dentista, che cercava di piazzarmi in tutti i modi, per cui mi aveva lasciato il bigliettino del dentista figlio che dovevo assolutamente chiamare per fissare una visita di controllo, quindi in realtà ci siamo sentite un paio di volte. E poi giustamente hai cercato di seminarla per evitare di avercela alle calcagna. Ginevra, e poi ti lascio andare, perché oggi di fatto il 23 dicembre di solito cominciano le vacanze, esatto. tu sei maestra, giusto? Io insegno. Insegni, cioè maestra, perdonami, perché ho pensato ai bambini, in realtà non è così. Sì, in realtà la scuola dove insegno ha tutte le classi e io mi dedico soprattutto alle elementari. però ai bambini stranieri, non italiani. Ma a cui insegni in italiano? Italiano, insegno italiano a loro, sì. Ma quindi non è vero che sono tutti figli di ricchi paffutelli? È vero, sì, perché la mia scuola... perché sono stranieri inteso... Oh, ok, cioè persone che... che girano perché... il mondo per lavoro. Chiaramente, nella scarsa fantasia che ho, penso subito ai figli dei cinesi che tutti... Ecco, non c'è più un italiano nelle scuole elementari. Quelli, ma... E invece no, qua parliamo di gente ricca che sta in Italia 2 anni e poi se ne va. Che già si domanda perché uno venga in Italia. Tu cosa farai queste vacanze di Natale, Ginevra? Guarda, vediamo se questa volta mi va bene. Sono in partenza per la Tanzania. Ah, ma che meraviglia, da sola? Sì, no, vado a trovare il mio fidanzato che è di lì. E vi... Ah, ma l'hai trovato un fidanzato alla fine? Alla dopo... fine ne ho trovato un altro, ovviamente non italiano. È Tanzanote, come si dice? Tanzaniano. Tanzaniano. E come hai conosciuto un tanzaniano? E in vacanza con 2 amiche a Zanzibar e lì. E cosa fa lui, Ginevra? A lui in realtà, oddio, è Masai. Cioè, stai con un Masai? Sì. Ma te mi devi raccontare sta storia qua, mica delle vacanze. Ma nel senso che è un Masai vero. Come chiedono i turisti a Zanzibar, dico, ma sei Masai vero o sei Masai finto? No, e cosa fa un Masai nella sua vita? Lui lavora con i turisti, quindi lavora a Zanzibar con i turisti, ha un'attività commerciale. Quindi non va in giro con le lance? Quando è a casa, a Corriboma sì. Ma è straordinario. Ma guarda, ma tu appena torni mandaci una storia. Come si chiama? Come si chiama? Simba. Simba, non è vero, ma dai, ma mi stai prendendo per il culo. Te lo posso giurare, guarda, ti do il numero dei miei amici se vuoi. Ginevra, ma sei un genio, ti sveli lentamente, parti con le malattie di Natale e poi arrivi al fidanzato Masai. Dimmi cosa dicono i tuoi genitori del fidanzato Masai. Diciamo che all'inizio sono rimasti un po' scioccati, adesso ma è mai venuto in Italia? Stanno ripresenti, mai... verrà in primavera. Senti, in aprile. Raccontaci una storia, ma vieni a vivere qui? L'idea è quella. Fantastico, raccontaci tutto, Ginevra. Fai un buon Natale e un buon viaggio. Ti ringrazio anche ciao, a voi. Grazie. Ciao, Matteo. 349-238-6666 si è scatenato l'inferno giustamente sul Masai. Ci sono donne che vorrebbero avere fidanzati Masai che si mettono in coda. Giulia mi scrive per chiudere: Natale di qualche anno fa, tutta la famiglia decide di trascorrerlo in una casa sugli Appennini. Ci arriviamo, nevica per 3 giorni e rimaniamo bloccati, litigando furiosamente tutto il tempo. Vi auguro un buon inizio di vacanze natalizie, grazie soprattutto a Tiziano Bonini, Margherita Ina e Paolino Corleoni. La storia di oggi era di Ginevra e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Luca, abito a Milano. La storia di domani è la mia e parla di decolli. Questa è la mia storia e io sono qui.